una forza di gioco. Ma la giuria no! Oscua! Tutti in Diamond! Guarda la mettilo, mettilo! Vieni con me! Nata la Diamond!